Eccoci qui, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia e noi fino al 24 dicembre siamo qui. Chissà quante volte il direttore di oggi, Umberto Brindani, si è scatenato al ritmo di queste note, eh? Direttore! Quante volte mi sono svegliato con la febbre sabato sera. Ecco, soprattutto la domenica mattina. Un bel martedì mattina. Ecco. Beh, allora, quella del webmaster. Webmaster, ma che la sfaccendata. Subito tu licenzia il webmaster a oggi, subito. Che fai tu? Se l'avessi il webmaster. Potresti convocarlo oggi alle 8 e dire, ma tu che fai? Sei webmaster oggi. Sfaccendato. Esatto. Licenziato così. Via De Luca. Il moderno De Luca. Allora, siamo con Umberto Brindani di oggi. Siamo anche con l'eroico, unico, grandissimo uomo Vincino, che ne ha combinata una grossa. Buongiorno. Che ho fatto? Vincino ne ha combinato, intervistato ieri da un tale Alessandro Milan per Libero, si è lanciato a parlare di cocaina in Parlamento, ma insomma, veramente, ma cosa. Intanto no, la febbre del sabato sera, tu te la ricordi? Sì. Assolutamente sì. La ballavi? Mi ricordo di tutto, guarda, ho tutto registrato. Ballavi. Tutto registrato. La ballavi. Ero bravissimo. Con la mossa la John Travolta, mi sembra giusto. A tuttora. No, era anche precedente, insomma, meglio forse, non lo so. Vabbè. Apriamo il Parlamento, va negli ultimi due giorni. Adesso qui vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Abbiamo dunque Umberto Brindani, direttore di Oggi, e Vincino. Eccoci qui. No, Vincino ieri su Libero, in prima pagina, sì, ripeto, intervistato da un tale, ha detto questa cosa, che riconosci quelli che tirano di cocaina in Parlamento, perché escono, com'è che escono dal bagno e fanno? Sniff. No, i bagni del Parlamento sono stupendi, guarda, io insomma ci andavo, mi mettevo là dietro, li vedevo entrare e uscire, guarda, sono 8 o 9 là, i bagni, uno di fronte all'altro, elegantissimi, stupendi, hanno la carta meravigliosa dentro. ma uno ci può stare là delle ore passa. E qualcuno ora, Brindani, adesso il nostro lavoro sarebbe di scoprire dei nomi da Vincino, approfittare, non so, cominciava a dire più a sinistra o più a destra, caro Vincino? Sono. Ah no, assolutamente, guarda, da destra a sinistra, tutti, guarda, tutti nello stesso modo, guarda, non notori dirigenti della destra, assolutamente. Ma i nomi, ho capito qua, siamo sempre qua in Italia, siamo in Italia, c'è il sesso più maschio più femmine. Io sto nei cosi là, nei bagni maschili, devo dire, là, ecco, quelli femminili li frequento di meno. Non... Vabbè, ma vedendoli uscire, un caso del passato, non so, la scena più clamorosa che hai visto, senza fare nomi. La scena più clamorosa l'ho vista mentre c'era una, credo, nella sala della, vicino alla sala della regina, c'era non so quale conferenza o dibattito in un corridoio laterale su una di quelle mensole, ecco qua, erano in tre là. Come in tre là? Sì, erano in tre, uno copriva, l'altro tic tic tic la faceva, quelle, non lo so, poi io non sono esperto di queste cose, non so che, nulla. In tre che sniffavano? Sì. Praticamente sì, era così. Ma dai, sì, su. Sì. Ma dai, no, così, no, così, davanti così, a tutti. Sono rimasto stupito pure io, e se ne vuole per farmi stupire a me, non è che sono rimasto così. Sono Brindani, qui ci sarebbe da approfondire. Adesso cerco di cavare nella memoria, ma ricordi che le Iene avevano tentato di fare... E come la, no, prova del capello, sì, se non sì, sbaglio, sì, no? Sì, sì. E poi furono brutalmente ma perché metà capelli venivano tagliati, cioè non è sai che ecco perché sono tutti pelati, lo fanno, allora, lo fanno per dato un'idea, ma hai dato un'idea, vedi, raccattare la cosa del barbiere là, dal barbiere della camera prima che chiude no, non è che si non è che, però c'è lo sciopero da qualche giorno alla camera, i commessi e così, è vero, sono arrabbiatissimi, hanno tagliato lo stipendio, sono in stato di agitazione i dipendenti della camera, attenzione. Ma loro sono dei lavoratori, guarda, non è che fossero tutti così gli statali, come i cosi là, i parlamentari, i commessi della camera, i commessi, comunque vabbè, ne hai visti tre che sniffavano così davanti a tutti, vabbè, sì. Mi sa che si entra qua nella leggenda, un giornalista, no, due giornalisti e un deputato. Ma che due giornalisti e un deputato? Adesso Brindali, tu hai i peggiori, Brindali, tu hai inviati alla camera? No. Corrispondente. Ma magari tiravano col naso perché avevano solo il raffreddore. Non lo so, mi sa che Vincino qua. Vabbè, ci dice almeno quanti anni fa corrisponde questo episodio? Cioè, 5 o 6 anni fa, va bene, dai, allora, che dobbiamo fare? Niente, tanto qua i nomi non ce li dice, fa finta di non averli riconosciuti. Ci salutiamo là. Li ha riconosciuti, ma assolutamente sì. Non ce lo dice, vabbè. Allora, caro Brindali, che Natale è politicamente? Finisce tutto questa vicenda? Mamma mia, non ne posso più delle banche. No, per carità, è una cosa importante, però sentir parlare ogni giorno, leggere i giornali. Temo che la vicenda delle banche ci accompagnerà anche nel nuovo anno, perché non sembra affatto finita questa storia. Ah, tutt'altro. Anche se Renzi sta abilmente cercando, come dire, di spostare l'attenzione, no? Adesso questo attacco continuo alla Merkel, molto giusto, devo dire, ma insomma è la classica arma di distrazione di massa, no? Perché in questo momento credo che siamo tutti, il 99% degli italiani sono preoccupati e si stanno chiedendo, ma i miei risparmi, che non sono in Banca Etruria, ma magari in un'altra banca, sono davvero al sicuro? Cioè, sì. Banca d'Italia e Consob stanno provvedendo a proteggermi? Guarda, sono talmente al sicuro che un signore, succede a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, un 35enne, è andato prima alla assemblea dei soci di Veneto Banca e poi, non contento, è andato alla sua filiale e ha detto: ridatemi i soldi! e ha maltrattato due cassiere, ha rubato 3.000 euro ed è fuggito, è stato arrestato, cioè ha tentato la rapina, io ci rido ovviamente, ha tentato la rapina della filiale, no, visto che, ecco, questo, cioè, per riprendersi i suoi, sì, ridatemi i soldi, sono miei, è andato lì. Ma tu lo sai, ci sono molte persone che dubitano addirittura che uno possa andare a ritirare i propri risparmi, e se non me li danno richiedeteli. E poi c'è il tetto dei 1.000 euro, che davvero noi l'educazione finanziaria della nostra, degli italiani, è a zero. 7.000 euro in realtà si è portato via, capito Vincino? Potrebbe essere un metodo quello di prendere. Ma io un'altra cosa notavo in questi, non so se è solo qua, le poste sono piene. Sì, cioè? Perché alle poste c'è, cioè, l'unico posto dove non fallisce è le poste. Quindi la certezza delle poste. La certezza delle poste, la certezza che prima c'era nella banca grossa, ora è nelle poste. Oggi Repubblica fa un sondaggio, dice che il 16% degli italiani ha fiducia nelle banche, cioè è crollata la fiducia, era il 30% solo nel 2000, è crollata al 16%, o Ilvo Diamanti, è un altro sondaggio. Grande successo del governo Renzi. Renzi ha una responsabilità, diciamo, ridotta. Ma Vincino è così. Ha sottovalutato, dico, però, la storia. Vincino è così. Vincino, sempre ieri in questa intervista di Libero, ha detto che la Boschi dovrebbe fare come Erika di Novi Ligure, sterminare mezza famiglia. Cioè, uno perché, ma dai, ma Vincino, ma perché dovrebbe. Cioè, padre e fratello, questo dovrebbe fare la Boschi. Niente. No, ma come dire, ma qua c'è anche molto dell'intervistatore, insomma, no, ci ha messo del suo, no? Io poi smentisce, come dire, non smentisco mai nulla, però come dire, è bello per questo, no? Una grande operazione di fantasia, diciamo. Esatto, no? Eccolo lì. Comunque, la fiducia nelle banche, sentite qua, Vittorio Feltri, Brindani, collega tuo, direttore come te, senti qua, Vittorio Feltri, la banca. Io sinceramente quei pochi soldi che ho li ho sparpagliati qua e là, perché quando vedo una banca, se avessi la pistola metterei la mano alla fondina, come diceva qualcuno in passato. Eccolo lì, Brindani, la tocca piano, come si suol dire, no? Vabbè, ma no, ma guarda, c'è davvero da preoccuparsi. Poi ieri è intervenuto anche Mattarella, quindi come dire, ormai siamo ai massimi livelli. Cercate di capire che cosa sta facendo, non facendo la cosa, insomma. Ne parleremo ancora a lungo, sì, tra l'altro, della Boschi. Ma tra l'altro da Mattarella, io col massimo rispetto, ma non è che c'è un intervento, come dire, questa storia Banca Italia. Oggi giustamente la vignetta anche di Giannelli in prima del Corriere della Sera, no? I giudizi, no, mette Mattarella, no? La Repubblica incoraggia il risparmio, i giudizi ingenerosi sulla Banca d'Italia, risparmiateveli. Cioè non mi sembra un po' un Mattarella, come dire, per carità, deve difendere le istituzioni, ma si può criticare se Banca Italia ha fatto qualcosa di male, non so, Brindani, se ha fatto qualcosa di sbagliato, cioè c'è questa... Ma no, ma si deve, cioè, sembra che ci sia questa difesa del sistema a tutti i costi, no? Sì, questo assolutamente, però noi siamo giornalisti, non dobbiamo rendere conto a nessuno se non ai nostri editori e ai nostri lettori, dobbiamo dire che come è stato rivelato in questi giorni, che la Consob sapeva che stavano emettendo queste obbligazioni subordinate e non è intervenuta. Dobbiamo dire che Banca Italia sapeva che stavano emettendo queste obbligazioni subordinate e non è intervenuta. Poi il governo ha fatto il suo con quel patatrac del 22 novembre, con un decreto che forse, se lo riscrivesse oggi, il buon Matteo Renzi forse farebbe il compito in classe in modo un po' diverso, no? Perché, tutto nato da lì. Comunque non ci sono solo le banche, no, volevo segnalare, Alessandro, la deriva ortopedica dei politici italiani. Ortopedica? Oggi sui giornali. Perché? No? Allora c'è Bersani che dice che non si può, polemizzando con Renzi, non si può blindare in modo ortopedico l'opinione della gente. E poi c'è Emiliano, sempre sui giornali di oggi, che dice che lui vuole tenere la delega sulla sanità in Puglia. E dice, è un po' come una ingessatura, poi si forma il callo osseo. L'ortopedia dei io se c'è una cosa per cui maledico la Spagna, maledico letteralmente la Spagna, che ha fatto ripartire il dibattito sull'Italicum in Italia. Cioè questa è l'elezione spagnola. Ma andiamo a sentire il traffico, che poi appunto approfondiamo. Massima di Confucio, ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Buongiorno Milan, vorrei iscriverti la mia lettera a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, per quest'anno portati via tutti i politici italiani. Tutte le sere andiamo a letto col vomito quando li guardiamo in televisione. La la la, arriva Cantone e adesso lo sai che gli piace sistemare, gli piace fare, è fatto così. Milan, scherzavo quando dicevo che devi offrire la cena. Dai su, invece non scherzo affatto quando ti dico che mi farebbe piacere vedere fra i presenti Mauro Meazza, Oscar Giannino e tutta la tua squadra. Grandissimi! I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, Alessandro Milan. va bene, va bene, grazie cara ascoltatrice. Vincino sono così i nostri ascoltatori, Sì, insomma, esagerato è anche tu, no? Esagerato, insomma, è la nostra segreteria telefonica, possono sì, dire così casualmente. No, guarda, 230 messaggi, no. Quelli da che vai, siamo a Natale, via, no, no, no, arrivano anche tanti insulti e noi li mandiamo in onda, non quelli proprio volgari. Il grande intervistatore degli ultimi giorni, insomma, vabbè. Vabbè, no. Sei, no, no. Sei il secondo in classifica, il forse secondo, vicino, primo. Chi è il primo? Brindani, il primo. No, no, è che l'oggi non lo leggo ogni giorno, ah, insomma, beh, no, ogni magari una volta a settimana, però vabbè. Domani tra l'altro in edicola, sì. Di che parlate, Brindani? Possiamo spoilerare la copertina o non si fanno queste cose? No, la copertina è una classica copertina familiare, abbiamo la famiglia di Bonolis, ma il servizio che vi consiglio di guardare, abbiamo selezionato le migliori 101 battute del 2015. Beh, ce ne sono 5-6 di Vincino, sicuro? 5-6 di Vincino. Sono, ma battute di chi? Dei politici o battute comiche? No, battute comiche, comiche. Andando a spulciare tra Twitter, Spinoza e quant'altro. Okay, ottimo. Tra l'altro sapete che oggi Vincino fa Renzi Babbo Natale, anche tu. Perché disegni sul foglio Renzi Babbo Natale? Italianini! Per Natale tanti lingottini per voi piccini. Ma è una cosa questa qua, lingottini, ma come parli? Ma dove? Cioè, che ne so, poi dall'altro dicevo, ma tu immagini De Gasperi che diceva ho dato tanti lingottini ai. Oh! E come dire, è una certa, noi siamo abituati a una certa serietà della politica, vabbè, una gravitas, no, i lingottini. Cioè, i lingottini, ma questa me la son persa, ci ha detto che ci ha dato i lingottini. Sì, ma come te la sei persa? L'ha detta da coso, da Giletti forse. Da Giletti ha detto, i lingottini, ma l'hanno notato subito, infatti poi è uscita la pubblicità che pure Banca Etruria dava i lingottini là. Sì, ti assicuro, cioè uno su Twitter ha messo la cosa, la pubblicità di Banca Etruria, cioè date i lingottini di Banca Etruria, cioè. I lingottini. Se non sbaglio il pensionato suicida aveva parlato anche di lingottini o sua moglie. Eppure. Mannaggia. Però sentite cosa è successo ieri alla Camera. Allora, sì. Ieri alla Camera c'è questa cosa, sapete che Laura Boldrini fa questa campagna perché vuole essere chiamata signora presidente o presidenta, non ho ben capito. Tu Vincino, quando la incroci, come la chiami? Ma io non la chiamo veramente, non, beh, insomma, ci adesso, evitiamo, non, è la terza carica, vabbè, dello Stato, insomma, ho capito, ma vabbè, devo, insomma, Brindani, tu capisci questa battaglia? Sì. Cioè, la trovi giusta? La trovo assurda. Allora senti qua che è successo ieri, sì. Stabilità l'altro ieri. Adesso chiede di intervenire il deputato Simonetti, prego. Grazie, signor Presidente. Signora. Signor Presidente, grazie. No, signora, perché io non sono un uomo. Fa lo stesso. No, non fa lo stesso, perché allora lei è deputata. Sì, guardi, non stiamo qui a discutere se di lei queste è, cose. Guardi, allora, io parlare, sono allora, signor Presidente, lei, se lei è deputata. Io, per favore, dico quello che voglio. No. Io dico quello che voglio, no. Mi rivolgo alla Presidenza come voglio. No. Lei rispetta, ma la Presidenza. Voglio, e lei se vuole, no. Onorevole, non deputato. Lei facciamo ancora si prima. Rivolge con rispetto. Va bene, ha mancato di rispetto. Chi è questo pazzo? Chi è questo Simonetti pazzo? Della Lega, no, credo. Grandissimo, sono con lui. Sei con lui? cioè, non so se della Lega, del deputato Simonetti, credo di sì, perché sono quelli della Lega che fanno queste sicuramente battaglie. Sicuramente della Lega. Ma Iotti era la regina là, non aveva bisogno di tu queste cose La regina qua, appunto, no. No, mica il re, la regina era appunto, se uno diceva il re. Là nel caso del re, regina c'è. Regina, poi la Repubblica abolì queste cose. Esatto. Vabbè, ho capito, però potrà dire io sono anch'io contrario a questa battaglia, perché sennò Brindani non è che è un giornalista, neanche Vincino è un vignettista. Sì. Ma non possiamo inquietarci, o meglio, noi potremmo anche parlarne fino a dopodomani, ma essendo lei la o il presidente presidenta della Camera, forse dovrebbe occuparsi anche di altro, cioè, veramente questa cosa che sta andando avanti da quando è su quello scranno fa venire un po' il latte alle ginocchia. vabbè, un po' no, ma secondo me lei doveva farlo notare e basta poi. Chiuso, un attimo, lo fanno andare via, ma non fare ma poi è degenerato, io mi rivolgo come voglio alla presidenta, insomma adesso esageriamo, banda di criminali, no adesso va bene, mi rivolgo come voglio alla presidenza. Boldrini c'è del ieri il segretario della Lega là gli ha detto vada a fare lei la cameriera, non so, una cosa, un linguaggio terribile. Sì, no, ma infatti. Allora, però vi voglio fare sentire anche questa cosa che riguarda il canone della Rai. Tanto qui sappiamo, Vincino, te l'ho chiesto mille volte, tu lo paghi il canone della Rai? Sì. Non lo so. tutte le volte risponde così, boh, forse, non mi ricordo. Devo averlo pagato anch'io. Sì. Tu Brindani tutto a posto, direttore? Sì. Anch'io non mi ricordo, forse mia moglie l'ha pagato. Porca miseria, il canone della Rai proprio una delle cose che... Però Renzi ci tiene a dire che dall'anno prossimo si paga di meno. L'ha detto circa 400 volte, ma eccolo qua, Renzi. Il canone Rai. Io l'anno scorso ho pagato 113 euro di canone Rai, come lei e come tanti altri. Non tutti, perché qualcuno ha fatto il furbo. Entra nella bolletta. Quest'anno che cosa succede? Lei ed io e tutti gli amici che sono qua non pagheremo più 113 euro, pagheremo 100 euro. Ecco. Ah, un altro lingottino. Cioè è una cosa, cioè è piena di stronzate questa finanziaria, questa cosa qua, una cosa seria, cosa non c'è là. No. Vabbè, ma scusa, sarà meglio pagarne 100 che 113, no? Per chi lo paga. Okay. No, per però aspetta, paga. Con la bolletta sono tutti obbligati, cioè proprio non sfugge nessuno, non è che è fatta apposta. Ti tagliano la luce, ho capito. No, adesso non è che ti tagliano la luce, dai, no. E come non ti tagliano la luce? No, non paghi, non vuoi pagare la parte di bolletta di cosa, ti tagliano la luce, via. Ma non credo. Ti tagliano la luce. Succederà questo, Brindani? Non credo. No, non credo. Arriverà la cartella di Equitalia, come sempre, no? Che certo. Ci ha dato tregua fino alla Befana, adesso il nuovo capo di Equitalia, ma poi continueranno ad arrivare le cartelle di Equitalia se non si pagherà il canone. Che forse è anche giusto, insomma, voglio dire. Poi è una tassa un po' antidiluviana, no? Perché è una tassa sul possesso dell'apparecchio televisivo, non è in realtà una tassa che poi diventa però tutto a favore della RAI. Sì. Quando gli emittenti televisivi e radiofonici sono ormai centinaia, però la tassa sull'apparecchio va a finire da Rai, che però si fa pagare anche la pubblicità e sta rovinando il mercato pubblicitario perché fa tariffe estremamente basse. È tutto un po' da rivedere. Vincino, intanto il lingottino arriva. Va bene, io vi devo salutare, vi ringrazio, ovviamente vi auguro un buonissimo Natale, ci sentiremo a gennaio, ricordate domani in edicola, domani giusto regolarmente, anche se è la settimana di Natale, il mercoledì esce oggi, abbiamo il nostro direttore Umberto Brindani qui, così come Vincino oggi fa le sue vignette sul Foglio, poi adesso ci svelerà al prossimo numero del Foglio chi sono questi nomi, di chi sniffa e di chi tira cocaina in Parlamento, vero Vincino? Assolutamente no. Ecco, benissimo. Benissimo, un'ottima pubblicità al Foglio di domani. Grazie, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ricordatevi che ci siamo, cari ascoltatori, fino al 24 di dicembre. Per quel che mi riguarda, la vigilia di Natale, eccoci qui. Siamo pronti a leggere i giornali quando sono le 7 e quasi 19 minuti. Oggi è l'ultimo giorno di scuola per molti bambini. Stanno accompagnati, venite accompagnati tutti felici. Le recite di Natale, viva e viva! Oggi non ho notizie su Babbo Natale, ve lo dico subito, cari genitori, state sereni, state tranquilli, non tappate pure le orecchie ai vostri bambini. E allora andiamo a leggerli questi giornali. In questo martedì 22 dicembre i titoli, il Sole 24 Ore, come molti giornali, apre sul discorso del Presidente del Capo dello Stato Mattarella.